Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, Italia in controluce, il consueto appuntamento di Radio 24 con la cronaca, il format che indaga sulla politica, sul costume, sullo spettacolo e sulla cronaca italiana. Ma ti rendi conto? Abbiamo fatto una città. A Milano lavoriamo noi. Lo dice Maurizio Luraghi, un imprenditore in affari con i boss dell''Ndrangheta condannato per associazione mafiosa. Si apre il libro di Gianni Barbacetto e di Davide Milosa, Le mani sulla città. I boss dell''Ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano. Chi sono questi boss, Barbacetto? Sono una serie di personaggi che se li incontri per strada non diresti per nulla che siano boss mafiosi. Di quello con la lupara e la coppola dobbiamo proprio dimenticarcelo. In genere sono uomini d'affari, gente che sa come si sta a tavola, che si veste dignitosamente, che sa fare, che magari è alla seconda o terza generazione di 'Ndrangheta e che si è saldamente installata al nord e qui fa i suoi affari. Vite da ricchi, dunque, scrivi, auto da 100.000 euro e vestiti firmati, imprenditori dalla faccia pulita come copertura, avvocati un tempo insospettabili. C'è veramente di tutto, quindi. Sì, e c'è una grande capacità di penetrare nel tessuto del imprenditoriale e politico, soprattutto. Ecco, quello che più ci ha colpito nel fare il punto e nel raccontare tante storie che si intrecciano in questo libro, non ci sono soltanto le storie della cocaina, che è il business iniziale, quello da cui l''Ndrangheta qui a Milano è riuscito a trasformare la ex capitale morale nella nuova capitale dell''Ndrangheta. Non c'è soltanto la cocaina, ci sono gli affari edilizi, gli affari immobiliari, i business della notte, con grande capacità di intrecciarsi con gli imprenditori che hanno cognomi appunto come Luraghi, no, non sono cognomi calabresi, accenti del tutto lombardi e milanesi, imprenditori che hanno smesso di fare libero mercato perché hanno deciso che è più comodo spartire con l''Ndrangheta, con i boss, i loro affari, è più sicuro, alla fine anche più redditizio. Tu scrivi che la lotta all''Ndrangheta è la sfida a cui sono chiamati il sindaco Giuliano Pisapia e la nuova amministrazione. Che cosa dovrebbero fare? Beh, intanto purtroppo Milano viene da una storia di negazione del problema. Io credo anche a volte per nobili motivi, e cioè Milano, la Milano degli affari, la Milano della moda, la Milano del design, la Milano della finanza, dell'informazione. Non ci stava a farsi costringere dentro le vesti della Milano della mafia, eppure le due Milano convivono e come. E allora c'è stata una costante negazione del problema, dal sindaco Paolo Pilitteri negli anni Ottanta, che diceva Milano la mafia non esiste, fino all'ultimo sindaco Letizia Moratti. C'è stata una negazione del problema, no, Milano è un'altra cosa, Milano è una città più complessa, certo ci sono dei fenomeni criminali, ma insomma non si può dire che Milano è come Reggio Calabria, però invece questo ha fatto dimenticare che invece in questa città ci sono 13 uomini politici che hanno ricevuto i voti dell''Ndrangheta. In questo libro noi ne facciamo i nomi, anzi veramente ne facciamo più di 13 di nomi, e bisogna tagliare questo filo, questo cordone ombelicale tra gli uomini delle cosche, gli uomini degli affari e gli uomini della politica. Se si riesce a far questo, Milano si salva, altrimenti diventeremo davvero la nuova capitale dell''Ndrangheta. Molti dicono che a Milano ci sono infiltrazioni di organizzazioni criminali, forse sarebbe più proprio parlare di presenza massiccia di organizzazioni criminali. Ma io direi di sì, cioè ormai è un sistema che è presente a Milano, è un sistema appunto che che opera su tre tavoli, quello dei business illegali, principalmente il grande traffico di cocaina, di cui Milano è una capitale europea, il tavolo degli affari, quindi dei grandi business, soprattutto edilizi, ma il business della notte, le cooperative di facchinaggio e tante altre, i locali notturni, i bar, eccetera, il movimento terra e compagnia, e il terzo tavolo, quello della politica, cioè sono questi tre pezzi di società che parlano tra di loro e costituiscono il grande pericolo dell'andrangheta. Ci sono varie parti che fanno impressione. Innanzitutto la capitale del riciclaggio. Oggi Milano è ancora la capitale del riciclaggio, oppure diciamo gli strumenti sono ancora più sofisticati rispetto a quelli degli anni 80-90? Ma sì, il riciclaggio si fa sempre con metodi abbastanza sofisticati, perché dove c'è la finanza diciamo c'è un'imprendibilità dei soldi, però il problema è che c'è, quando arriva la mafia arrivano anche i mafiosi, non dobbiamo pensare, come a volte si è fatto in passato sottovalutando il problema, che appunto Milano tutt'al più potesse essere la capitale della finanza mafiosa, che comunque resta qualcosa di imprendibile, di contro cui è difficile far qualcosa. No, è insieme presenza anche criminale, cioè dietro i capitali mafiosi ci sono i mafiosi che sparano. Milano è con presenza di tutti i livelli. Qui ci sono stati gli omicidi, qui ci sono costantemente cantieri, per esempio edili, che vengono bruciati, che vengono imprenditori che vengono intimiditi, macchine di movimento terra, escavatrici, camion che vengono danneggiati, nel silenzio e nell'indifferenza generale non c'è mai nessuno, quasi nessuno che vada a denunciare. Ecco, in questo Milano e la Lombardia è più arretrata, per esempio, della Sicilia, dove Confindustria siciliana invece ha fatto argine, pubblicamente ha preso diciamo posizione contro le organizzazioni criminali, tanto da espellere i membri che pagano il pizzo o che fanno compromissioni con Cosa Nostra. E qui da noi siamo ancora Siamo ahimè più indietro che in Sicilia. Grandi affari e grandi opere. Siamo, si può dire ormai, alla vigilia dell'Expo, mancano pochi anni. E cosa dobbiamo temere? Ma dai discorsi che vengono registrati in questo libro, da chi li ha conosciuti in prima persona, i boss dell''ndrangheta sono manager molto efficienti, molto capaci. C'è uno dei grandi riciclatori appunto degli ultimi anni, l'avvocato Melzi, ex difensore dei piccoli risparmiatori imbrogliati da Sindona, diventato poi però ahimè riciclatore dell''ndrangheta, che dice: ah, ne ho portati un paio a discutere con due grandi banche. Beh, è gente che non ha studiato, ma ragazzi che bravi che sono, cioè, hanno fatto impressione, cioè è gente capace. Ha una capacità, come dire, che si è affinata con una selezione che si fa con le armi, lì chi sbaglia muore, quindi è una selezione durissima, diciamo c'è una selezione per merito, ecco, e non per raccomandazioni. E questi sono bravi e sono pronti. Il problema è, sarà la pubblica amministrazione altrettanto brava e altrettanto pronta da fare argine, altrettanto attenta da bloccare le infiltrazioni dei gruppi criminali nei grandi appalti in generale e in quelli dell'Expo in particolare, perché loro l'hanno detto, è già da anni che sono pronti. Italia in controluce era la seconda edizione, vi ricordo potete iscrivervi alla nostra pagina di Facebook per tenervi aggiornati su tutti i temi quotidiani, abbiamo anche il gruppo naturalmente Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, siamo su Twitter, insomma siamo rintracciabili praticamente ovunque. Torniamo domani 6.30 Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di stretta attualità.